Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il terrorismo è veloce e l'Europa spesso è lenta. Allora noi dobbiamo dare quel di più di velocità all'Europa per poter fronteggiare delle minacce che hanno il ritmo di un crimine globale e anche la forza e la latitudine di organizzazioni che sembrano non essere complesse, ma che poi in realtà trovano sempre tra di loro un punto di incontro. Questa è una delle cose, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che il ministro dell'Interno Alfano ha detto oggi al vertice straordinario europeo dei ministri dell'Interno e della Giustizia. È l'ennesimo vertice anche questo, abbiamo parlato di tantissimi vertici sull'immigrazione, questo sulla sicurezza, straordinario perché effettivamente dopo gli attentati di Bruxelles di nuovo i 28 si riuniscono per capire cosa fare, quali misure di sicurezza prendere, creare effettivamente questa benedetta intelligence europea. Vediamo, tra poco ci colleghiamo con chi ha seguito questo vertice per capire se finalmente è la volta buona. Alfano, tra le altre cose, ha detto anche che è pronto per l'Italia un piano di antiradicalizzazione dei musulmani, una cosa importante, così appare, no? Una prevenzione culturale, quindi. Su questo sentiremo il vicepresidente delle comunità religiose islamiche italiane per capire effettivamente che cosa dall'interno anche la comunità musulmana può fare per evitare l'estremismo, la radicalizzazione, soprattutto dei giovani. Poi c'è una proposta di D'Alema che vi ho già messo sulla pagina Facebook di Effetto Notte se la volete andare a vedere, Massimo D'Alema, che dice dobbiamo creare un Islam europeo, quindi in modo che anche questa è prevenzione, che non vada verso l'estremismo, e per fare questo propone un 8 per 1000, così come c'è per la Chiesa Cattolica in Italia, dice un 8 per 1000 per le moschee dei musulmani, quindi con soldi pubblici pagare anche la costruzione di moschee in modo da integrare meglio i musulmani nelle nostre città. Cosa ne pensate? Questo è uno degli interrogativi che vi pongo questa sera. Cosa pensate di questa proposta di Massimo D'Alema? L'altra cosa su cui chiedo il vostro parere è questa infinita polemica su Federica Mogherini, alta rappresentante della politica europea, che al momento, poco dopo gli attentati di Bruxelles, era in Giordania, ha dato questa comunicazione e l'avete vista in lacrime, ha avuto questo momento così di commozione, e insomma Bertolaso non ha perso occasione per dire il candidato sindaco di Forza Italia a Roma non è così che ci si presenta, non si deve piangere, le persone vogliono, la gente vuole dei politici rassicuranti, è stata imbarazzante questa sua debolezza, e Giorgia Meloni ha rincarato dicendo mi vergogno di lei, si deve dimettere. Anche su questo vorrei la vostra opinione. I vostri due canali di interazione, lo sapete, sono sempre quelli, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS al 349-238-6666, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo di molte altre cose, anche naturalmente dell'amichevole che sta giocando l'Italia con la Spagna, ma innanzitutto sintesi della giornata. Bruxelles, Salah era pronto a sparare per la strada di Bruxelles mentre i complici si facevano saltare in aria in aeroporto e in metropolitana. Vertice europeo straordinario, al centro lo scambio di informazioni tra i 28, Alfano annuncia un piano nazionale anti-radicalizzazione. Nigeria, il leader del gruppo islamico integralista Boko Haram, annuncia la resa. La guerra nell'ex Jugoslavia, Kadric condannato a 40 anni dal Tribunale dell'Aia per crimini di guerra e genocidio. Egitto, giallo sulla morte di 5 persone legate al delitto Regeni. Le ragazze morte in Spagna, tutte le salme sono rientrate in Italia. Milano, Gianluca Corrado, il candidato del Movimento 5 Stelle, eletto con 634 voti alle primarie confermative online. Pasqua, quasi 10 milioni in vacanza, timori per il terrorismo, Colosseo e San Pietro sorvegliati speciali, l'esodo comincia domani. Scienza, ha creato il primo batterio sintetico col DNA minimo per la vita. Calcio, addio Johan Cruyff, leggenda del pallone, intanto amichevole dell'Italia, Udine contro la Spagna. Partiamo quindi dall'ultima novità nell'inchiesta sugli attentati di Bruxelles. Salah Abdeslam stava organizzando, quindi il regista degli attentati di Parigi che è stato arrestato nei giorni scorsi, stava organizzando insieme ad altri due complici un attacco a colpi di Kalashnikov per le strade di Bruxelles, mentre il gruppo di terroristi partito dal covo di Scharbeck avrebbe dovuto farsi saltare in aria mettendo così in atto un piano analogo a quello di Parigi. Ne danno notizie ai media belgi, ma poi tra poco approfondiremo con la nostra giornalista a Bruxelles. Intanto, mentre il livello di allerta in Belgio è stato abbassato dal livello 4 a 3 per decisione dell'organo di coordinamento per l'analisi dei rischi, anche se sembra che abbiano quasi fretta, non so, in Belgio di abbassare il livello d'allerta, comunque si è tenuto nella capitale belga il vertice europeo straordinario dei ministri, vi dicevo, dell'interno e della giustizia, con l'obiettivo per l'ennesima volta di creare un coordinamento europeo dell'intelligence per lo scambio dell'informazione tra i 28. Ce l'avranno fatto io questa volta? Cercheremo di capirlo collegandoci tra poco con Bruxelles. E dalla rete jihadista intanto arrivano nuove minacce nei confronti dell'Europa anche attraverso un video. Gli obiettivi sono scanditi tra risate di scherno e finte esplosioni. Downing Street, Gatwick, Heathrow, il simbolo del potere politico inglese e i principali aeroporti di Londra. Ecco gli ultimi bersagli dell'ultimo video di minacce e propaganda targato Daesh. Uomini mascherati elencano i prossimi obiettivi dopo gli attentati di Bruxelles, esaltati anche in un altro filmato con l'ennesima chiamata alle armi. Andiamo al jihad, incita una voce montata su immagini con le distruzioni della capitale belga. Si fa riferimento ai jet che bombardano in Iraq e in Levante, dicono, e si cita poi anche Donald Trump, candidato repubblicano alla Casa Bianca, e il ministro dell'interno francese Cazeneuve. Traccia di una rete europea di possibili jihadisti come i 90 foreign fighters, si calcola, partiti pure dall'Italia, 10 dei quali già rientrati. Ci sono vari gruppi, dice a storiacce il procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo. Esistono dei collegamenti tra queste persone che si muovono su paesi diversi, altri gruppi ne abbiamo individuati, però la situazione italiana non è certamente uguale a quella di altri paesi europei. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il terrorismo, lo diciamo da più tempo, da più parti, non deve cambiare le nostre abitudini, le nostre vite. Sono quasi 10 milioni gli italiani che andranno in vacanza da domani per Pasqua. Il 91%, secondo dati Federalbergo, resterà in Italia. Domani mattina è previsto un aumento del traffico stradale sin dall'alba. Sentiamo Damiano Pica, segretario di Viabilità Italia, intervistato da Edoardo Sirignano. Si prevedono particolari difficoltà alla circolazione, soprattutto nella giornata di domani, in alcune direttrici principali, quelle del nord. Dove si concentrerà il traffico? In uscita verso la Svizzera e in A4, nel tratto tra Milano e Verona, quindi per tutti coloro che si dirigono verso il lago di Garda, ma ancora in A4, tra Venezia e Trieste, ancora criticità si possono registrare in A10, in autostrada tra Ventimiglia e Genova, e in A14, soprattutto nel tratto tra Ancona e Pescara. È previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate nelle fasce orarie tra le 14 e le 22. E adesso una notizia che arriva dalla Nigeria, non si capisce ancora quanto fondata, perché sennò sarebbe un'ottima notizia. Fonti militari di alto rango nigeriane sono convinte che per il gruppo fondamentalista nigeriano Boko Haram, responsabile di migliaia di vittime del rapimento, vi ricordate, di centinaia di studentesse di cui non si sa più nulla, sembra, secondo queste fonti militari, che il gruppo sia giunto alla fine. Lo ha affermato un alto ufficiale alla BBC online, dopo aver visionato l'ultimo video del leader del gruppo, Abubakar Shekau, che appare con il volto emaciato, stanco, con la barba folta, e afferma: per me è giunta la fine. Il messaggio è chiaro, ha detto la fonte militare. Vedere Shekau nel video non significa altro che il gioco è finito, è un video di addio. Poteva darlo anche molto prima, ma insomma speriamo che sia la volta buona. E adesso la guerra nell'ex Jugoslavia, con la condanna di Karadžić, il leader politico e militare che progettò e guidò la repressione nei confronti di musulmani e croati di Bosnia. The chamber finds you, Radovan Karadžić, guilty of the genocide. 100.000 morti in Europa in nome della grande Serbia. Radovan Karadžić è stato condannato a 40 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di 10 degli 11 capi d'accusa sollevati per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e per il genocidio compiuto nel luglio del 95 nel villaggio di Srebrenica. Karadžić è stato giudicato nella sua veste di presidente della Repubblica Srpska e capo supremo dell'esercito a partire dal dicembre 90 fino alla fine della guerra nel 95. Arrestato nel 2008 a Belgrado, dopo una caccia durata quasi un decennio, furono migliaia a manifestare invano per fermarne l'estradizione all'Aia. Karadžić è stato riconosciuto personalmente colpevole dell'impresa criminale congiunta dell'assedio di Sarajevo. Radovan Karadžić, 70 anni, era presente oggi all'annunciazione della sentenza. Si è dichiarato sorpreso, lui che ha sempre negato le sue responsabilità. In the custody of the tribunal. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Sul caso Regeni, l'ennesima versione dell'Egitto che parla di una banda di 5 sequestratori che sono stati uccisi, che prendevano turisti, cittadini stranieri per avere poi in cambio dei soldi. Insomma, questa parrebbe l'ennesima presa per i fondelli, insomma. Politica adesso italiana. Gianluca Corrado, avvocato e ufficialmente il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Milano dopo la rinuncia di Patrizia Bedori, che aveva vinto le comunarie di novembre. Le primarie confermative online annunciate questa mattina dal blog di Beppe Grillo hanno eletto dunque Gianluca Corrado con 634 voti, cioè il 72% dei voti dei votanti. Bufera nel frattempo per la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma, Virginia Raggi, per alcune dichiarazioni su Acea, che è la società partecipata dal Campidoglio e quotata in borsa, che gestisce acqua ed elettricità del comune di Roma. La Raggi annuncia il referendum sull'acqua pubblica e un cambio di management qualora vincesse le elezioni. C'è un attacco del PD nei vostri confronti a Roma, la vostra candidata Virginia Raggi ha parlato male della CEA e il titolo ha perso dei milioni in borsa. Queste sono farneticazioni, il fatto che un candidato sindaco dica che vuole cambiare il management di una società partecipata dal Comune di Roma è sacrosanto. Se dire questo fa cadere in borsa, chiedete a chiunque, la vedo una farneticazione più che un attacco del PD. Ma c'è un complotto per farvi vincere a Roma? Questo io non lo so, credo che la battuta di Paola Taverna sia stata presa troppo sul serio, era una battuta. Io spero veramente che i cittadini romani complottino per farci vincere a Roma, cioè ci votino. Riguardo invece alla politica internazionale, oggi l'Espresso pubblica dietro front. Prima voi dicevate la famosa frase di Battista che bisogna dialogare con l'ISIS, adesso invece state cambiando idea e dite l'ISIS va combattuto, è così? Quella frase di Battista è stata totalmente fraintesa. Per come la vedo io, il Movimento 5 Stelle ha un'unica linea sulle organizzazioni terroristiche. Se oggi il Premier vuole fare qualcosa per fermare il terrorismo è chiedere subito ad un tavolo europeo che si blocchino gli scambi commerciali e i vantaggi economici verso quei paesi che finanziano i terroristi. E questo era Di Maio al microfono della nostra Betta Fiorito. E in furia la polemica sulle lacrime dopo gli attentati di Bruxelles di Federica Mogherini, alta rappresentante della politica estera europea. Giorgia Meloni dice: mi vergogno di essere rappresentata da lei, si deve dimettere. E ritorna a polemizzare anche il candidato di Forza Italia a Roma, Bertolaso, stamattina sulla 7. Sentiamo. Quelle lacrime? Trovo imbarazzante che il ministro degli esteri dell'Unione Europea si metta a piangere dopo un attentato del genere. Il ministro degli esteri dell'Unione Europea, come tutta la Commissione Europea, deve far vedere appunto che noi non abbiamo paura, che noi non ci facciamo intimidire, che noi anzi vabbè, vogliamo quindi è d'accordo reagire. Con Giorgia Meloni su assolutamente questo. Sì, come al solito. Vabbè, ma dai, adesso così diciamo, diranno che sono maschilista, anche se Juncker si fosse messo a piangere, diciamo, avrei detto quindi, che veramente è una scena imbarazzante. Gli europei vogliono essere rassicurati dai loro leader. E questo Bertolaso, cosa ne pensate di questa polemica? È stato così un momento di umanità quello di Federica Mogherini, nel momento in cui ha pianto brevemente per i morti di Bruxelles, o un'espressione di debolezza secondo voi? 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, così come vi chiedo anche il vostro parere sulla proposta di Massimo D'Alema di creare anche di introdurre un 8 per 1000 anche per costruire le moschee in Italia e quindi integrare maggiormente i musulmani che vivono nelle nostre città. Le ragazze morte in Spagna, parliamo di loro, adesso sono rientrate tutte le salme nelle bare di legno chiaro sbarcate dall'aereo atterrate questa mattina a Pisa. C'erano le salme delle studentesse Elena Maestrini, Elisa Valente, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo, morte domenica scorsa nell'incidente in Catalogna. Quasi alla stessa ora sono state celebrate le cerimonie funebri per Serena Sarracino a Torino, dove è stato deciso il lutto cittadino, ed Elisa Scarascia Mugnozza a Roma. Quella per Francesca Bonello è stata celebrata ieri a Genova. Una notizia sul virus Zika: è arrivato in Sud America in aereo fra maggio e dicembre 2013. Questa è la sua origine, probabilmente dalla Polinesia francese, in occasione della Confederations Cup di calcio. Lo conferma la mappa genetica del virus, che ha individuato una stretta parentela fra i ceppi isolati nei paesi sudamericani nei quali il virus si è diffuso e quelli presenti nelle isole del Pacifico. Parliamo di Pasqua, di coloro che viaggeranno, quasi 10 milioni in vacanza. Ci sono timori per il terrorismo, ci sono luoghi sensibili come Colosseo e San Pietro sorvegliati speciali. In Italia il 91% premia le città d'arte, e, cioè in Italia restano il 91%, premiate le città d'arte per il 28%, spiagge il 29%, montagne il 23%. E poi per quanto riguarda la spesa, festa all'insegno del risparmio, fino a domenica si acquisteranno 30 milioni di uova e 26 milioni di colombe, ma è un meno 3%. C'è una notizia che riguarda una scoperta, creazione scientifica, si chiama SIN 3.0, segna un nuovo significativo passo in avanti verso la creazione della vita artificiale, il primo batterio sintetico con un DNA ridotto al minimo, solo 473 geni, contiene in sé tutte le istruzioni per la sopravvivenza, ha visto la luce negli Stati Uniti, grazie al lavoro del gruppo di Craig Venter, che è il pioniere che al sogno di ricreare la vita in laboratorio ha dedicato decenni di ricerca. Invece sono non molti minuti quelli in cui è iniziata la amichevole tra Italia e Spagna. Giovanni Capuano, come andiamo? Buonasera Roberta, sono 29 esattamente minuti e il risultato è 0-0, ma è una discreta Italia quella che sta giocando a Udine contro la Spagna, un'Italia che fin qui ha fatto la partita, anche se poi c'è stata soltanto un'occasione vera, una conclusione di Candreva al quarto d'ora dal limite dell'area di rigore, che ha costretto il portiere della Spagna De Gea a distendersi sulla sua destra per mettere in corner. Spagna però che sta faticando, non è la solita Spagna, ci sono delle assenze, ma c'è soprattutto una discreta Italia davanti che fa la partita, ha creato altri presupposti dopo la conclusione di Candreva di cui vi ho già parlato. C'è stato Florenzi che ha sbagliato il passaggio al momento del tiro cross per smarcare un attaccante davanti alla porta, e poi un paio di minuti fa c'è stato un destro al volo di Giaccherini su cross di Candreva che è stato ribattuto da un difensore della Spagna. Dunque 0-0 rispetto alle formazioni che erano state annunciate alla vigilia. Nell'Italia c'è un cambio, in difesa c'è Astori al posto di Acerbi. Per il resto tutto confermato, il 3-4-3 con davanti Candreva, Eder e Pellè. Un cambio anche nella Spagna, se pensava giocasse Casillas. E invece Del Bosque ha scelto De Gea. A Udine è tutto esaurito, c'è clima di festa. Almeno fin qui sta andando tutto per il meglio. A te Roberta. E così speriamo che prosegua e poi ci risentiamo con Giovanni Capuano. Poi l'altra notizia invece, lutto nel mondo del calcio. Addio a John Cruyff, l'uomo che cambiò il calcio con l'Ajax e l'Olanda, inventò questo gioco totale, il calcio totale, una rivoluzione culturale nel mondo del calcio. Poi magari se c'è tempo ne parleremo in modo più approfondito. Adesso invece, prima di aggiornare chi sta viaggiando, magari già in viaggio per Pasqua o anche chi viaggia per altri motivi, i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito delle due domande che vi ho sottoposto: cosa ne pensate delle lacrime da Mogherini attaccate da più parti e anche difese in modo anche bipartisan, oppure della proposta di Massimo D'Alema sul dare l'8 per 1000 anche per costruire le moschee in Italia. Allora, dice Mauro, islamizzare l'Italia con un popolo che ha come diktat quello di convertire gli infedeli e ucciderli, ma cosa abbiamo fatto di male per nascere in questo paese dei balocchi, governo di Molluschi? Invece Lia da Viareggio anche lei dice no, di certo l'8 per 1000. Un altro messaggio: penso che D'Alema sia, cioè, una cosa non molto lusinghiera, abbiamo trovato jihadisti che prendevano assegni sociali, ora si finanziano le moschee che a sua volta fomentano odio verso di noi. Stefano Treviso, D'Alema sicuramente, sono d'accordo con lui, per quanto riguarda il caso Mogherini ha dimostrato il suo lato umano. Continuate con le vostre riflessioni, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme ancora con i vostri messaggi. Qualcuno scrive, come anche ha risposto Ernesto Carbone del PD, le polemiche di Bertolaso sulle lacrime di Federica Mogherini per i morti di Bruxelles. Dice, così come ha detto Carbone del PD, questo ascoltatore: certo, per Bertolaso è più dignitoso chi ride per il terremoto. Questo è anche il Twitter molto duro di Carbone contro Bertolaso. 349-238-6666 il numero per gli sms, pagina Facebook di Effetto Notte. Questo messaggio dice: come le lacrime da coccodrillo della Fornero andavano bene ed hanno affamato quelle oneste e comprensibili per il sangue della gente, da Mogherini si ritengono una vergogna. Vi ricordo quali sono i titoli principali e poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Anche Salah, secondo le ultime notizie, sarebbe stato pronto a colpire sparando con un Kalashnikov in mezzo a Bruxelles. E poi pare che i kamikaze puntassero i siti nucleari del Belgio. Ministri europei in campo, azioni comuni contro il terrorismo, di questo hanno parlato oggi al vertice straordinario. Alfano dice i terroristi sono più veloci, l'Europa è lenta, e il ministro della giustizia Orlando dice ci vuole più coordinamento. Il tribunale dell'Aia che condanna a 40 anni Karadzic per il genocidio di Srebrenica, colpevole di 10 capi d'accusa, il suo legale annuncia ricorso. Morto Johan Cruyff, il Pelé bianco che cambiò il calcio, profeta del gioco totale. E poi il primo batterio sintetico è stato creato con il DNA minimo per la vita. Pasqua, quasi 10 milioni in vacanza, timori per il terrorismo, Colosseo e San Pietro sorvegliati speciali. Colleghiamoci allora con la nostra Maura Bertanzone che si sta aggiornando costantemente anche attraverso i giornali radio e gli altri programmi da Bruxelles. Ciao Maura. Ciao, buonasera. Senti, sì, allora, scusami Maura, che mentre a Bruxelles è stato convocato appunto oggi il Consiglio europeo straordinario di cui parleremo dopo con il nostro inviato Sergio Nava, allora intanto il Belgio ha abbassato l'allerta da 4 a 3 per decisione dell'organo di coordinamento per l'analisi dei rischi, che non so se effettivamente avranno deciso in modo, immagino, opportuno, mi sembra un po' frettoloso. Comunque arrivano altre notizie, si diceva appunto che Salah Abdeslam, che tra l'altro secondo indiscrezioni sarebbe stato preso dalle forze di sicurezza non per una particolare, diciamo, strategia dell'intelligence, ma perché un abitante del quartiere dove era protetto da 4 mesi a un certo punto è andato a spifferare la sua presenza a un comando di polizia. E pare che, insomma, lui che dice che non ne sapeva nulla di questo duplice attentato a Bruxelles, invece fosse coinvolto e dovesse a sua volta partecipare con un Kalashnikov sparando per le strade di Bruxelles. Risulta da quello che hai potuto appurare tu, Maura? Sì, lo hanno confermato in queste ore, pareva appunto che Salah avesse pianificato una sparatoria a Bruxelles insieme a Belkaid, l'uomo che è stato ucciso nel Blitz nel quartiere di Forêt ancora più di una settimana fa, e a un terzo uomo. Più se ci sommiamo l'azione dei kamikaze, ci dà un quadro che a questo punto è molto simile all'attentato, alle stragi in grande stile che sono state fatte a Parigi. Una fonte di polizia pare appunto abbia confermato che sia plausibile il legame fra queste due piste, e quindi quello che diceva Salah di non saperne niente degli attentati è stato smentito dal passare delle ore. Un'altra cosa interessante è che scrivevano che Salah in effetti è stato interrogato per un'ora soltanto venerdì dopo il suo arresto, perché anzi sabato mattina appunto, quando è stato dimesso dall'ospedale, perché appunto era molto stanco, si stava ancora riprendendo dall'operazione, e che gli inquirenti abbiano iniziato a interrogarlo a partire in ordine cronologico, quindi a partire dalle stragi di Parigi, nonostante ci fosse l'evidenza anche degli arsenali, dell'arsenale ritrovato nel covo di Forêt. Quindi ancora una volta quello che sta montando in queste ore sono le domande, i dubbi e anche le critiche su come gli inquirenti, i servizi e la stessa politica ha gestito sia le indagini che la minaccia che poi effettivamente si è attuata. Un paese totalmente impreparato, ci vorrebbe un corso accelerato, vi è quasi da dire, veramente non si smette di sorprendersi, insomma, non si voglia tirare la croce addosso al Belgio, ai suoi politici, alle forze di sicurezza, all'intelligence, però insomma quello che sta venendo fuori direi che è abbastanza sconfortante. Senti, e c'è anche confermata la notizia che in realtà il duplice attentato all'aeroporto e alla fermata della metropolitana sia stato un ripiego per l'accelerazione dell'intervento che hanno dovuto fare i terroristi dopo che è stato arrestato Salah, ma che il vero obiettivo fossero le centrali nucleari in Belgio? Non si sa se fosse il vero obiettivo, certo sì che erano nel mirino, perché appunto sì, è venuta fuori la notizia che il direttore della centrale nucleare, che è poco fuori Bruxelles peraltro, sia stato pedinato, ripreso da una telecamera nascosta proprio dai fratelli Bakraoui ancora nel dicembre scorso, che avessero recuperato poi la telecamera che avrebbe filmato una decina di ore dopo appunto averlo monitorato. Questa notizia è uscita a dicembre, ma solo il 17 febbraio è stato deciso di rinforzare i controlli, la sicurezza sulla centrale nucleare con 140 militari, diciamo, a proteggerla. mentre solo negli ultimi giorni è stato negato l'accesso alla centrale a 11 credo dipendenti, quindi ancora una volta moltissimi segnali che sono stati sottovalutati, così come è stata sottovalutata l'azione stessa dei due kamikaze. Khalid, è stato detto oggi, era già stato preso, era in libertà condizionata per piccoli reati, aveva divieto di frequentare cattive compagnie, però era stato ribeccato durante un banale controllo per un'auto in sosta vietata, credo. Poi a partire da ottobre, quindi prima delle stragi di Parigi, sparisce, non si presenta più ai controlli giudiziari, quindi un'altra volta se lo sono fatti sfuggire un po' sotto il naso. Già. Mentre l'altro, esatto. Maura, scusami, invece per quanto riguarda i feriti, ce ne sono sempre di più gravi, tra i 300 e più di 300, no? E c'è anche la difficoltà di riconoscimento delle vittime proprio per quello che queste esplosioni hanno creato. Di Patricia Rizzo ancora non si sa nulla, no? Dell'italiana che dovrebbe essere. Non è stato identificato, cioè non è stata data ancora nessuna notizia in merito. Uno degli ultimi aggiornamenti è che di quattro vittime, ci sono quattro vittime in coma e due sono state identificate, però di nessuno è stato dato qualche aggiornamento in particolare. Leggevo prima che comunque gli stessi medici dei pronto soccorso dicevano: già così siamo allo stremo delle forze, non oso immaginare come avremmo potuto gestire la situazione se le stragi sarebbero state ben peggiori, ecco. Grazie Maura Bertanzon, grazie e buon lavoro, buona continuazione Maura da Bruxelles, ciao. E c'è il nostro Sergio Nava, sempre da Bruxelles. Ciao Sergio. Ciao Roberta. All'indomani degli attentati, dicevamo, si è tenuto oggi il Consiglio europeo straordinario dei ministri degli interni e della giustizia, per appunto convocato in via straordinaria dopo quello che è successo. E ne è emerso finalmente qualcosa di concreto, visto che per l'ennesima volta si è parlato di un'intelligence europea, di un coordinamento dei servizi segreti, di uno scambio di informazioni tra i 28 paesi? Ma diciamo che il comunicato finale è un comunicato in 10 punti sostanzialmente, in cui si ribadiscono fondamentalmente misure, intenzioni già espresse o comunque pezzi di legislazione contro il terrorismo già in pista. Peccato che non magari sono stati rallentati, piuttosto che non si è avuta la volontà di portare fino in fondo uno per tutti. Lo scambio di dati passeggeri aerei, c'è una data, adottarlo entro aprile 2016, avverrà, si spera, però chiaramente non lo possiamo sapere. Quindi sostanzialmente un vertice che alla fine, per ammissione della stessa presidenza del turno olandese, possiamo dire che non ha portato nuovi piani o nuove misure, ma ha cercato di accelerare l'implementazione di quelle già in pista, tanto che lo stesso commissario europeo Avramopoulos ha detto: se ci saranno nuovi attacchi, se ci saranno nuove stragi, occorrerà ritenere saranno ritenuti responsabili quei paesi che non collaborano, cioè se i paesi membri non collaborano, saranno ritenuti responsabili se si verificheranno altre situazioni come quelle che abbiamo già vissuto. Il commento generale sia da parte della Commissione sia da parte dei ministri presenti è che stavolta c'era veramente la volontà di cominciare a lavorare seriamente sullo scambio di intelligence, seriamente sull'implementazione e o l'accordo di misure già in vista. Vi faccio un rapidissimo elenco anche per non annoiarvi troppo, però oltre alla direttiva PNR si parla di controlli sistematici alle frontiere esterne Schengen, controlli sul possesso di armi, lotta al finanziamento del terrorismo, uso di prove digitali, ad esempio se ne è parlato, no? Collaborare con i provider anche per poter accedere a dati. Sentivo che Alfano parlava anche, forse domani al Consiglio dei Ministri ci sarà questo testo di legge sul DNA, la banca dati sul DNA, non so se ne hanno parlato anche lì. Beh, diciamo che Alfano qui ha parlato più che altro di questo piano contro la radicalizzazione, di cui parlerò tra poco, sì, con un esponente della comunità musulmana. Ha parlato soprattutto di quello, come diciamo, ha portato quello un po' come misura che intende portare implementare ora in Italia, e sostanzialmente ha detto: il terrorismo è veloce e l'Unione Europea deve quindi velocizzarsi essa stessa. Mm. Al di là del commento, possiamo dire unanime, di siamo venuti qui e abbiamo visto che stavolta veramente vogliamo fare qualcosa assieme, però se mi chiedi concretamente questo verrà, è difficile dirlo, perché già abbiamo sperimentato molte quindi, altre volte. Quindi aveva l'impressione oggi, in verità, di essere un po' in una bolla, come dire, fuori c'è la realtà, c'è una città prostrata ancora da doppio attentato e qui un'area di parole, ma al di là. Esatto. Chiarissimo, senza giri di parole, Sergio Nava da Bruxelles. Ciao Sergio. Ciao, buonasera. Ciao, grazie anche a te Sergio. Direi di prenderci una pausa, tra poco allora parleremo proprio di questo, di come possa avvenire effettivamente una prevenzione culturale, un'antiradicalizzazione di musulmani che sono nei vari paesi, e tra l'altro in vari paesi europei ci sono proprio dei sobborghi, dei quartieri molto fittamente e quasi esclusivamente abitati da cittadini musulmani, dove effettivamente, così un po' marginalizzati, si può coltivare il seme dell'estremismo. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto però i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. A proposito della proposta di Massimo D'Alema di creare un 8 per 1000 anche per costruire moschee in Italia, per integrare meglio i musulmani, Luciano dice: ma qui il problema non sono le moschee, per i musulmani è un posto di ritrovo come per noi sono le chiese. Io mi chiedo, ma i terroristi noti alle forze dell'ordine per malefatte, perché non sono stati espulsi e mandati nei paesi d'origine? Chi vuole vivere qui o rispetta le leggi o se ne deve andare via. Veziuccio scrive: peccato che quando governava D'Alema non si è mai posto questo problema, non ha mai proposto questa sua nuova idea. Come al solito queste riflessioni vengono fatte dopo una strage, tipico atteggiamento. Forse sarebbe meglio, oltre all'integrazione che deve essere fatta nel migliore dei modi senza ghetti, creare anche un sistema di interforze per controllare il territorio europeo. È quello di cui si parlava, ma sembra che insomma risultati concreti. Ma Danilo dice: D'Alema, la volpe del tavoliere, non a caso, che idea geniale, soprattutto usare i soldi pubblici, una bella pensata, uno statista che il mondo intero ci invidia, beati noi. E quindi contrario. Floriano dice: D'Alema quando parla perde un'occasione per tacere, nella sua carriera politica si ricorda solo per i danni. Insomma, molto critici alcuni, qualcuno dice che può essere un'idea. Continuate con le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666, su WhatsApp leggo Cesare che dice: nei paesi musulmani lo danno un contributo per la costruzione di chiese, D'Alema è meglio che si va a fare un lunghissimo giro in barca, dice Cesare. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano sempre con voi mentre arrivano i vostri messaggi e le vostre riflessioni su due punti questa sera che vi ho chiesto. Uno è sulle lacrime di Federica Mogherini, alta rappresentante della politica europea, che ha versato delle lacrime quando ha saputo dei morti di Bruxelles, degli attentati, e subito è stata criticata da varie parti ma anche molto difesa. Due tra quelli che l'hanno criticata sono il candidato di Forza Italia a Roma, Bertolaso, ex capo della protezione civile, che ha detto: è stato un atteggiamento assolutamente imbarazzante, la gente vuole essere rassicurata, non ci devono essere queste dimostrazioni di debolezza. E Giorgia Meloni ha detto: mi vergogno di essere rappresentata da lei, si deve dimettere. E poi dal PD, ma anche in modo bipartisan, è stata invece difesa. Cristiano dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: un sano cedimento emotivo è senz'altro umanissimo, ha pianto persino il paladino Buonanno, cuore di Lega Tenace. L'idea che il potere sia sinonimo di sguardo gelido e addirittura ruvida, che nessun tuffo commosso possa sormontare l'ordinaria prassi, eccetera eccetera, insomma, dice, è stata un'espressione di umanità. Maurizia: la Meloni rimane la Meloni, l'errore è stato difendere lei, invece bisognava solo condannare quello che aveva detto Bertolaso. Per quanto riguarda Mogherini, non rimprovero le sue lacrime, ma dovrebbe piangere anche per le migliaia di profughi che non sanno dove andare perché l'Europa che lei rappresenta ha chiuso le frontiere. Certo, però diciamo che l'impatto così devastante del momento, diciamo, lacrime le prova più, altrimenti bisogna piangere praticamente ogni minuto. E poi invece l'altro argomento, anche se sono moltissimi devo dire i vostri messaggi su questo argomento, l'altro tema che vi ho sottoposto è la proposta di Massimo D'Alema del PD, che dice: per integrare meglio i musulmani in Italia, come prevenzione sarebbe per esempio una buona idea proporre l'8 per 1000, così come si costruiscono le chiese cattoliche con l'8 per 1000, e così fare anche per le moschee. Ne parleremo tra pochissimo con Yaya Pallavicini, che è vicepresidente Coreis, poi vi spiegherò che cos'è, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. E voi naturalmente proseguite anche con i messaggi al 349-238-6666. Bruxelles, Salah era pronto a sparare per le strade di Bruxelles mentre i complici si facevano saltare in aria in aeroporto in metropolitana. Vertice europeo straordinario, al centro lo scambio di informazioni fra i 28. Alfano annuncia un piano nazionale antiradicalizzazione, di cui parleremo tra poco. Nigeria, leader del gruppo islamico integralista Boko Haram, annuncia la resa. La guerra nell'ex Jugoslavia, Karadzic condannato a 40 anni dal Tribunale dell'Aia per crimini di guerra e genocidio. Saluto allora Yaya Pallavicini, che è vicepresidente Coresis, cioè Comunità Religiosa Islamica Italiana. Buonasera Pallavicini. Buonasera. Allora, quindi abbiamo sentito del vertice europeo, dove dovevano essere prese delle misure finalmente per creare un coordinamento tra i vari paesi di intelligence e di scambio di informazioni. Per ora, come ci diceva il nostro inviato, non è che sembra che ci siano risultati concreti. Però sul piano nazionale il ministro dell'Interno Alfano ha annunciato questo piano antiradicalizzazione, cioè quindi una forma di prevenzione culturale per evitare quello che è successo per esempio in Belgio, ma anche in altri paesi dell'Europa. Per esempio vedevo questo atlante della Jihad in Europa, che cita Francia, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, Germania, Svezia e Danimarca, dove ci sono proprio degli interi quartieri tutti dove regna un misto, insomma, tra il caos e la sharia islamica, una rete che ha delle vere e proprie roccaforti, delle intere aree urbane dove ci sono quasi esclusivamente musulmani e dove purtroppo si può anche coltivare facilmente il seme della radicalizzazione, dell'estremismo. Yaya Pallavicini, visto che lei lo vede dall'interno, il mondo musulmano, può essere questa una buona idea? E in cosa può consistere un piano anti-radicalizzazione dal suo punto di vista? Ma sì, vedo bene questa iniziativa, soprattutto forse dobbiamo ritararla in priorità in attesa di un coordinamento efficace a livello europeo in termini nazionali. E quindi l'iniziativa del ministro Alfano, di cui sono consigliere nella Consulta per l'Islam italiano, forse può valorizzare un modello italiano di integrazione come prevenzione al radicalismo, che eviti quei luoghi oscuri, quei ghetti dove di fatto la politica dell'accoglienza, almeno per quanto riguarda il Belgio, è stata generosa nello stipare le persone in case popolari, dando qualsiasi possibilità di sussidio, ma in realtà purtroppo abbandonandoli a loro stessi senza avere nessun interesse a conoscere i nuovi cittadini del Regno del Belgio. Questo, grazie a Dio, non capita in Italia, secondo me per un evento culturale, cioè il popolo italiano, a prescindere dalla sensibilità istituzionale, è mediterraneo e naturalmente aperto spontaneamente a una interlocuzione ben disposta. E questo permette anche agli immigrati o ai futuri e nuovi cittadini in Italia di non arginare, di non essere un po' estranei alla dinamica anche sociale. E questo potrebbe permettere a maggior ragione un'integrazione di valori, di culture e anche di identità religiose in maniera sana, evitando proprio quei ghetti dove invece vogliono davare il cervello i fondamentalisti. Yaya Pallavicini, però sono rimasta un po' impressionata dal racconto di qualche giorno fa in televisione di un giornalista della RAI che ricordava di essere stato prigioniero qualche anno fa di un gruppo dell'ISIS che per sua fortuna, insomma, l'ha trattato abbastanza decentemente rispetto ad altri sgozzati, torturati eccetera, e diceva che in realtà tra loro c'erano molti ingegneri, medici, quindi non diciamo poveri ragazzi disgraziati, marginalizzati e quindi fagocitati poi dall'estremismo. Com'è possibile? Sì, questo è vero, ma ho detto che questo è veramente forse un ulteriore paradosso di questo pseudo califfato che si organizza o che cerca di legittimare sia la gestione di un territorio che l'organizzazione di un cosiddetto Stato, che addirittura una politica estera basata sul terrorismo. Il fatto che effettivamente ci sono sì medici e persone che sono disposte a servire la costruzione di questa amministrazione così come ci sono persone che sono ben liete di arricchirsi nell'acquisto irregolare del greggio o nella vendita irregolare di armi. Mm. Per cui è vero che purtroppo ci sono delle complicità di vario livello. Pallavicini, ma mi dica una cosa. Diceva, ricordava un ascoltatore giorni fa, qui nella mia trasmissione, diceva, ma come diceva la Fallaci, non tutti i musulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono musulmani. Come se la spiega questa cosa? E anche le chiedo, l'Islam alla fine che cos'è? Cioè che cosa prevede? Anche per esempio per quanto riguarda la figura della donna, no? Che è fondamentale per capire il grado di civiltà di una cultura, di un popolo. Certo, ma io con il rispetto per la produzione letteraria e la finezza intellettuale di Oriana Fallaci, su questo slogan non sono d'accordo, e, nel senso che purtroppo è vero che tutti i terroristi sono persone corrotte sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista di azione, ma non possiamo associare un'identità culturale, nazionale o religiosa a un criminale. Il criminale è purtroppo un uomo, una donna, un anziano, un giovane che agisce coscientemente per il male proprio e dell'altro, ma non c'è una matrice religiosa, una matrice culturale o nazionale sana o autentica che possa essere giustificazione di questo uso. La stessa cosa vale per. Ecco, ci dice una volta per tutte appunto la figura femminile come. Sì. Questo vale anche perché un conto sono le regole, un conto è la disciplina dei diritti e dei doveri equi tra uomo e donna, un conto sono le degenerazioni o le interpretazioni formaliste, bigotte e maschiliste che purtroppo si ritrovano. Mi fa piacere sentirla, dire questo, Pallavicini, ma non è quindi un problema interno all'Islam, al di là di quanto possano fare per esempio in Italia, no? Le istituzioni italiane, gli stessi cittadini per evitare questa radicalizzazione, ma l'Islam dal suo interno che cosa può fare? Perché spesso ci si chiede, ma veramente i moderati si fanno sentire, protestano, fanno capire che loro sono estranei a questi orrori? Ah, io non mi considero un moderato, nel senso che vorrei evitare che ci siano, posso rispettare che ci possano essere moderati nella fede di qualsiasi religione. Io cerco di essere un osservante coerente con la declinazione sana e educata dei principi religiosi, quindi io credo nell'ispirazione religiosa come elemento valoriale e questo, ahimè, nella nostra civiltà islamica contemporanea ha delle corruzioni, delle vere e proprie corruzioni, che uno di questi segnali è proprio il maltrattamento dell'identità familiare e della natura femminile. Ancora una volta, se uno andasse alle fonti e andasse ai modelli profetici, compreso appunto quello islamico, non ci sono tracce che possono legittimare questa degenerazione, un po' come capitava anche nel cristianesimo oppure in Italia fino allo secolo scorso. Il delitto d'onore, esempio, durato fino a non molti anni fa. Yahya Pallavicini, il discorso è molto interessante ma molto complesso, quindi mi auguro di ritrovarla presto qui a Effetto Notte su Radio 24. Grazie intanto. Buona serata. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Velocemente ti aggiorno sulle notizie più importanti di questa giornata con Salah Abdeslam. In Bruxelles è stato rivelata la notizia che probabilmente era pronto lui stesso a colpire con coloro che si sono fatti saltare come kamikaze. Poi i ministri dell'Unione Europea oggi sono riuniti in questo vertice straordinario per decidere delle azioni comuni contro il terrorismo. Alfano dice loro sono più veloci, l'Unione Europea è troppo lenta. Il ministro della Giustizia Orlando dice ci vuole più coordinamento, ma per il momento non sembrano uscite cose particolarmente concrete. Poi il Tribunale dell'Aia che ha condannato a 40 anni Karadžić per il genocidio di Srebrenica. Ed è morto Johan Cruyff, il Pelé bianco che cambiò il calcio, profeta del gioco totale.